Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. È il bestseller del momento, Inferno di Dan Brown, uscito in contemporanea mondiale il 14 maggio, domina le classifiche. In Italia ha vendute circa 800.000 copie, nel mondo 9 milioni e tutto in poche settimane. Per la prima uscita pubblica in Europa, lo scrittore americano ha scelto Firenze, città dove è ambientato il suo ultimo romanzo pubblicato come sempre da Mondadori. Protagonista di Inferno è nuovamente il professor Robert Lanton, esperto di simbologia, che si sveglia ferito e in stato confusionale in una stanza di ospedale a Firenze. Qualcuno ha cercato di ucciderlo e lui deve scoprire chi e perché attraverso la decifrazione di una serie di simboli presenti nella Divina Commedia di Dante. Un'opera che Dan Brown ha studiato a fondo, come ha raccontato nella conferenza stampa fiorentina. La traduzione è di Paolo Noseda. I first encountered the Divine Comedy when I was 18 years old. I was studying Italian and we read a version of Inferno, a simplified version of course for beginning Italian students. Il primo incontro che ho avuto con la Divina Commedia di Dante fu quando io avevo 18 anni, ero un giovanissimo studente di italiano e ci capitò appunto di studiare una versione semplificata dell'Inferno dantesco, una versione che andasse bene appunto per dei novellini di italiano come eravamo noi. E io fui immediatamente colpito dalla freschezza, dalla modernità, dalla bellezza di quest'opera che nonostante avesse 700 anni non li dimostrava assolutamente. E davvero questa fu la cosa che mi si fissò in mente già da quando ero assolutamente giovane e la cosa che mi ha spinto ad amarla sempre. Poi ovviamente ho scritto il Codice da Vinci e studiando la storia della Chiesa mi sono reso conto di quanto Dante avesse davvero influenzato attraverso la sua visione estremamente moderna quella che era la visione dell'inferno, appunto dell'inferno dantesco. L'inferno che era già stato scritto peraltro e descritto anche precedentemente nella Bibbia e anche in alcune opere della mitologia classica. Però Dante Alighieri fu quello che attraverso la Divina Commedia davvero mi colpì in modo assolutamente vivido per la sua descrizione assolutamente strutturata, vivida, codificata e terribile anche dell'inferno, che è quella che poi d'altro canto ci portiamo dietro noi oggi. Possiamo davvero dire che Dante fu l'inventore dell'inferno, così come lo concepiamo noi. E mi ricordo molto bene la mia visita, la mia prima visita al Battistero, proprio qui a Firenze, quando alzai il capo e guardai il mosaico e vidi questo demone a tre teste e pensai che forse Dante, anch'esso, aveva avuto lo stesso tipo di sensazioni che avevo avuto anch'io quando lo vide probabilmente per la prima volta da bambino. Quindi io credo davvero che la Divina Commedia sia un po' come la Gioconda, sono quelle opere assolutamente immortali che trascendono il loro periodo e che ti permettono di capire quello che è l'idea permeante della cultura e che ti fa rimanere sempre a bocca aperta. And becomes a cultural touchstone for all of us. And so for me it was impossible to resist. I spent a lot of time with the Divine Comedy and especially with Inferno. It was important to me to remember that there are scholars who have spent their entire careers studying the Divine Comedy and studying Dante. Io in effetti ci ho passato parecchio tempo sulla Divina Commedia e in particolare sull'Inferno mentre stavo scrivendo questo libro. Io invece Dante, per così dire, me lo sono studiato e l'ho fatto un pochino a pezzi, nel senso che, per esempio, ho cercato di riordinare la visione del cattivo e quindi la visione del male come se fosse stata scritta attraverso gli occhi di Dante e quindi dare questa nuova, diciamo, interpretazione in modo tale che il mondo di questo scrittore potesse incuriosire e potesse spingere i lettori a riscoprire quello che di fatto magari di Dante non avevano ancora preso in considerazione. And hopefully go and discover or rediscover Dante for himself. There's a lot of Dante in Inferno. E a proposito del ruolo che il cattivo e i cattivi hanno nei suoi romanzi, Dan Brown ha parlato della sua concezione del male. What fascinates me about evil and about the concept of a villain is a villain who does the wrong thing for the right reason. Beh, è giustamente la cosa che mi ha affascinato, parlare del male e parlare anche del concetto del cattivo, cioè di colui che ha fatto qualche cosa di sbagliato, però per tutta una serie di motivazioni giuste. Vale a dire, quando chiudi il libro e quando hai finito di leggere il libro, devi sempre chiederti se il cattivo è stato davvero il cattivo o forse invece magari un eroe. E devo dire che questa è stata la cosa che mi ha spinto sempre in tutti i miei libri a esplorare quella che è la grandezza che sussiste fra il bene e il male, fra l'essere il cattivo e esserlo in questo modo. Usually I try to find an ethical dilemma where I can argue both sides of the equation. Dan Brown ha voluto anche raccontare la genesi di questo romanzo, spiegando come ha reperito le informazioni. The most important resource that I ever have in writing these books is not the internet, is not even books, it is people. La principale risorsa alla quale io mi sono dedicato e sulla quale appunto ho fatto leva per scrivere questo libro non è stata internet, non sono neanche stati i libri di testo, sono state proprio le persone, i curatori, gli specialisti, gli studiosi, persone che come me e con me hanno condiviso la loro passione, perché volevo e speravo che appunto questo fosse un libro che potesse trasmettere davvero la grandissima passione e il grandissimo amore che io stesso ho per Dante, per la città di Firenze, ma anche per tutte le altre mie passioni che possono essere l'ingegneria genetica, il transumanismo, eccetera. Cioè volevo che tutte le informazioni, il corpus di informazioni di questo libro generasse e trasmettesse appunto passione. And a lot of times I get that passion and that information from real people. Quando si parla di un autore di bestseller come Dan Brown è inevitabile parlare anche di chi lo critica aspramente e lo scrittore americano replica così. Obviously every writer wishes that every single person loved what he does. Apparently that's not how it works. Il sogno di ogni scrittore è quello di far sì che il libro che scrive sia assolutamente amato da tutti senza nessuna critica. Questo purtroppo non succede. E quando uno scrive o quando uno dipinge o quando compone la musica, ma anche uno chef, no, vorrebbe che il proprio gusto potesse diventare la guida per i propri lettori o per il proprio pubblico. Beh, io devo dire che ogni qualvolta mi accingo a scrivere un libro, non tengo in considerazione il tipo di impatto che questo libro avrà sul pubblico, ma scrivo un libro fondamentalmente che vorrei leggere io, che potrei amar leggere, e poi lo metto a disposizione del mondo e lo condivido con il resto del mondo. Ci sono alcuni che amano e ameranno questo libro e sono i miei fans, ci sono alcuni che invece saranno i miei detrattori o i miei critici, semplicemente perché a loro questo libro non piacerà. La meraviglia e la bellezza dell'editoria è proprio che ci sono una pletora di libri a disposizione, l'uno diverso dall'altro. E non importa se non tutti amano il mio libro, ripeto, però io trovo che il best seller, che è il libro veramente che fa dei grandi numeri di vendita, sia anche uno strumento che aiuta l'editoria, nel senso che grazie ai proventi, per esempio, che il mio libro porta nelle casse della Mondadori, la Mondadori si può permettere di pubblicare altri scrittori, altri tipi di libri. I always feel very fortunate that my books on some level help other writers produce their books. Ma la notizia che ha scaldato gli animi degli italiani è l'idea che Roberto Benigni possa interpretare un ruolo in un film tratto da Inferno. È stato lo stesso Dan Brown a lanciare l'idea e allora gli abbiamo chiesto quale ruolo sarebbe adatto a Roberto Nazionale. I would not presume to tell Mr. Benigni what role to play. Devo dire che io non posso presumere di chiedere a Roberto Benigni di interpretare un ruolo. È talmente un grande attore che lui potrebbe davvero interpretare assolutamente quello che vuole. Io lo lascerei del tutto libero. I will just have to wait and see. Anche Robert Langdon? I can't see him playing Mr. Langdon because per quanto riguarda Langdon, no, non mi sembra un personaggio adatto a Roberto, che è un italiano, mentre Langdon è così tanto americano. Ma ciò detto, io sono un grande fan del suo lavoro e sono assolutamente certo che, dopo aver amato tantissimo il suo tutto Dante, lui possa fare qualsiasi cosa. And certainly of his work with tutto Dante. E questo era Dan Brown, che ha presentato a Firenze il suo ultimo romanzo Inferno, pubblicato da Mondadori. Vi ricordo che la traduzione era di Paolo Noseda, uno degli interpreti migliori che abbiamo in Italia. Tra l'altro vi segnalo anche il suo libro, perché è molto divertente e molto interessante. Si intitola La voce degli altri, memorie di un interprete, pubblicato da Sperling e Kupfer. Vi ricordo anche che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.